24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. Se dovessi dirla in modo sintetico, direi: l'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. La noia per Matteo Renzi, questo sarebbe il selfie dell'Europa, la noia, effettivamente. Oh, io lo dico sempre, sono noiose queste cose, anche questi resoconti sui giornali. Adesso l'ha detto il Presidente del Consiglio, quindi possiamo assolutamente essere tranquilli, sereni e dire che sono noiose queste cose. Però poi Renzi ha fatto la voce grossa, ha fatto la voce grossa. Perfino il giornale oggi scrive: finalmente un italiano che manda un bel vaffa ai tedeschi. Libero dice: ha trovato il suo capo. Il suo capo sarebbe il capogruppo del PPE, il tedesco Weber, che a un certo punto gli ha detto: ma insomma, basta la flessibilità, ci vuole rigore. E al che Renzi ha risposto: non prendiamo lezioni da chi ha sforato il patto del 3% in passato. Finalmente uno. Vincino, tu che lo conosci bene, buongiorno Vincino, hai visto la cavalcata di Renzi come prosegue con È scappato di corsa, di fatti, dopo, invece di fare una conferenza con Schulz, ha detto: mai, assolutamente, è andato da porta a porta. È andato da porta a porta. Non ne poteva più di questi qua, guarda. Soprattutto dei suoi, anche a quelli là, i popolari olandesi e tedeschi, glielo potevano dire che Renzi era uno di loro da giovane, perché non è che... Non avevamo capito niente pure loro. Hai visto che nervo. Assolutamente ha risposto a mollare Schulz là da solo e a tornarsene. Questa è stata proprio, è con i fatti che si vedono le cose, agisce veloce. Come va il libro La cavalcata di Renzi? Benissimo, ieri abbiamo fatto la presentazione nella mia edicola ed è stata un successo, guarda. Su 40 copie arrivate ne abbiamo vendute 35, guarda. Ma incredibile, ma la tua edicola cosa vuol dire? Hai un'edicola? L'edicola dove vado vicino a casa mia, l'edicola vicino a casa mia. Dove ti rifornisci, Dove mi rifornisci. Io sono come un edicola dipendente praticamente. Sì. La mattina mi sveglio, la prima cosa devo i giornali, no? Non mi basta apro il computer e cosa, ma non mi basta. Ma il bello della carta, il profumo della carta. Questo rumore, no? Cioè l'emozione di prendere la mazzetta. La mazzetta dei giornali si chiama così. L'emozione di prendere in mano la mazzetta, nel senso. Perché ci infilavano i soldi tante volte, era il modo facile. Ah, si chiama così per quello? Nei film si vede che ci infilano i soldi passa il giornale. Chi è che sa perché si chiama la mazzetta dei soldi? Vabbè, comunque, allora adesso ditecelo magari se sapete da dove nasce la mazzetta dei soldi al 349-238-6666. Intanto voglio salutare Miriam Lucchetti che mi fa dei gesti molto concilianti del tipo la pistola, come dire ti sparo. La pistola della mazzetta nei film. Non ho capito niente, ma questo me l'ha detto nell'interfono. La mazzetta nella pistola nei film. Vincino, hai capito? Così mi ha detto: no, è la mazzetta nella pistola nei film. a volte uno mette il fucile pure dentro, dentro i giornali. No, vabbè, allora dai, saluto Peter Mescapè in regia e apriamo il Parlamento. Forza! A un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. È la 61esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Caro vicino, stiamo chiamando Maurizio Tortorella che non risponde, però si è addormentato evidentemente. Che giorno è oggi? Oggi giovedì. Hanno già chiuso Panorama. Sì, lui esce già, oggi. È chiaro, no, esce in edicola e qui da dormire tranquillo. Vedi come si vabbè, fa. Siamo qua da soli, approfittiamone. Approfittiamone per dire tutto ciò che vogliamo nei confronti di Panorama. Assolutamente sì. No, Panorama ancora non ha fatto niente, mentre non ha accusato, non ha fatto niente. Per Panorama il mio libro è come se non fosse uscito ancora. Che vergogna! No, dovremmo beccarlo entro le sette per dirgli. Ho rilasciato ieri un'intervista, l'altro ieri a Di Più, poi a Divadonna, perché tutti i settimanali di Cairo, no, sono certo, più informati. Certo, sono tutti di Cairo, perché il tuo libro è di Cairo, che ricordiamo è il più grande editore. È l'unico editore ancora che ha un rapporto con le edicole, che le conosce, che lui non ha capito come si fanno i soldi del web ancora. Lavora sulle edicole. Allora, oggi, Renzi, ti è piaciuto il discorso in Europa? L'hai sentito? No, ero tutto preparato, stavo preparando la mia cosa, là ero... avevo professor Ainis, Roberto D'Agostino e Francesco Verderrame, insomma, del Corriere della Sera. Era una cosa impegnativa, no? Cioè a casa? Per cui, che frequentazione? No, a fare la presentazione del mio libro. In questa edicola sono venuti un sacco di pezzi, c'è stato un dotto dibattito praticamente noiosissimo, vabbè. Come noiosissimo? Ma no. Sì, perché è terribile, ragazzi. Perché poi a me mi sarebbe piaciuto là, proprio che mi attaccavano pagina dopo pagina, mi massacravano, io mi difendevo, no, niente, io gli elogi non li sopporto, vabbè. E allora no, ho visto pochi pezzettini, no, questo re Telemaco, no, Telemaco, figlio di Ulisse. Ieri a studiare chi fosse, sì, chi diavolo fosse era Telemaco. Quello che mentre Ulisse non c'era, lui faceva il cretino con tutti i proci là. No, è così, poi arriva Ulisse e si riscatta, però è il vecchio cane che riconosce Ulisse, mica Telemaco. Telemaco ancora faceva il cretino con i... Senti, la nostra generazione è la generazione Telemaco, ha detto ieri Matteo Renzi, mettendo un po' di scompiglio e mettendo un po'... aveva detto la generazione Erasmus e tutti si erano preparati su Erasmo e l'Erasmus, e poi ha stupito a Telemaco, pam! Nessuno parla di Telemaco, però Telemaco, se ci pensate, ha un compito che è ancora più difficile. Non a caso all'inizio dell'Odissea Atena lo chiama e gli dice: non potrai mica pensare di restare qui ad attendere. Anche la nostra generazione, quelli che sono nati, quelli che non avevano neanche 18 anni quando c'era Maastricht, io non ero neanche maggiorenne quando c'è stato Maastricht, la nostra generazione ha il dovere di riscoprirsi Telemaco. Capito, caro Vincino, è perché la generazione che non vuole attendere, e infatti corre, fa... Io sono la generazione Ulisse. La generazione Ulisse, vabbè. Va bene, l'importante non essere la generazione Argo. Allora Argo è il cane, dillo, appunto, no? È l'unico che riconobbe. Certo, appunto, è il cane, quindi l'importante è non essere quello, almeno questa è la cosa importante. Vabbè, ma voto da spizzichi e bocconi, voto al discorso di Matteo Renzi. Farage gli ha dato 7. Grillo ha arrivato 1-2, fatto come un pazzo Grillo quando si è visto Farage che gli dava 7. Sette. Magari è più intelligente di quello che Grillo ce lo vuole far sembrare, questo qua, non lo so. E poi hai visto quel politico là in televisione che piange, si spera per l'altro di Benevento. Ma non mi devi bruciare le cose, no, ci arriviamo. All'altro di Benevento, perché là la cosa... No, ma ci arriviamo. Prima però, per venire alle cose italiane, caro Vincino, sì. Sai chi incontra oggi Matteo Renzi, questa mattina? Sarkozy. No. No. Ma dai, è più semplice. Vabbè, ma dici che vivi in edicola. Ma Silvio Berlusconi si incontrano. Sì, sì, no, okay. Si incontrano. Tutti e due sono Sarkozy. Che c'è? Che c'è di Sarkozy? Che Sarkozy, guarda, a me, guarda, quella... Mi fa ridere sempre Sarkozy, guarda. Non perché se... ti fa? Perché lui rideva di noi, dell'Italia. No. È come dire, non è che uno può fare il disgraziato, mandà i missili, cioè, allora, lui ci ha dato soldi a Gheddafi, sì. Poi però per non far uscire prove gli manda i missili e lo fa ammazzare per giunta, no, una cosa, guarda, invece di che le l'aveva arrestato per mettere in galera i libici, no. Lui no. C'ha i suoi 00 ti stai sfogando, no? Su Sarkozy, non è bello, no. Sfogarsi con una persona in difficoltà che è stata arrestata, ma che è una persona in difficoltà? Ma tu ne sai qualcosa, ma insomma, No, lo so, vabbè, ma insomma, garantista, però il problema con la Libia ce l'abbiamo, mica vanno a Marsiglia quelli là con i barconi, vengono da noi. Ecco perché, ho capito, però quando una persona è in difficoltà, le manette, i problemi con la giustizia... No, le manette non gliel'hanno messe, l'hanno trattenuto in una stanza per 43 ore, insomma, non è che una cosa di questa... Una cosa normale, insomma, normale, si può fare, è uscito con un volto trasfigurato. A proposito di trasfigurati, allora Carlà visto... chi sa dov'era in quel momento là? Chi? Che... Carlà. Carlà pare sia sparita da 3 giorni su Twitter, non twitta più, non dice niente, però è il tuo momento, Vincino, siccome sì. Allora abbiamo detto che il Renzi oggi incontrerà Berlusconi questa mattina per sì. Blindare il patto sul del Nazareno, sì. No? Insomma, le riforme, poi forse incontrerà anche quelle del Movimento 5 Stelle, ma ha già detto Grillo no. Allora, è il momento, perché io sono pronto a twittare. Hai un messaggio da dare a quelli del Movimento 5 Stelle? Quelli del Movimento 5 Stelle di andarsi, che ne so, guarda, mi hai preso alla sprovvista. Ma sai che è il momento in cui, insomma, che ne pensi di Grillo? Di quello che viene così spontaneamente. Guarda, che c'è, allora, praticamente la contraddizione è perenne tra allora Grillo che va a Coso e che dice ha fatto Coso, bene che va a Strasburgo, no? Perché là è sì. complicato, perché cioè loro stanno 3 volte a Bruxelles e 1 volta a Strasburgo, no? Sì, per cui sì, individuare sì, sì. dove sono andati questa volta. Non si capisce. Vabbè, va a Strasburgo questa volta qua, no? E quelli si voltano tutti, meno i grillini che non si voltano perché loro sono dignitosi e loro hanno il rispetto di potere. Arriva Grillo e dice no, avete fatto una stronzata in mano, dovete voltarvi tutti insieme a Farage. No. Sì. Poi Farage da 7 a Grillo a Renzi, no. Grillo gli ha dato 2-1-0 meno, no, quindi... della cosa. E i grillini sono indecisi tra perché i grillini in realtà sono tutti renziani di per sé, quelli là, i deputati, lo sarebbero, no? Basta che Renzi gli dà, ci guarda, mezza cosa, e noi tutti così, perché non, cioè, sono una banda allo sbando, dei poveri disgraziati allo sbando, così, con questo capo che arriva, si traveste, mascherato, urla qualche cosa ogni tanto, appena uno sbaglia nella scrive il rimborso, via, espulso, cos'altro, no, è una disperazione, guarda. Vabbè, allora, aspetta, eccolo qua, l'ho tradotto, Vincino a 24 mattino, ho preso le... quelli del Movimento 5 Stelle, i grillini sono tutti renziani, in realtà sono dei poveri disgraziati allo sbando. Allo sbando, sì. Va bene, posso twittare? Twitta, che okay. Poi riceviamo 35, 240. Ok, ho twittato, ovviamente buona giornata, ti auguro come reazione a Vincino, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Hanno rimesso l'impunità, l'immunità. Come se non si capisse che ce lo vanno a fregare. Mannassa tutti a cagare. Ma volevo chiedere agli italiani, il 40% a Renzi cosa ha portato? Al PD cosa ha portato? Ha riportato l'immunità per i parlamentari e non ha cambiato niente nel Mediterraneo. Complimenti. 40% speso veramente molto bene. Senti, ma io volevo sapere che fine hanno fatto le abolizioni degli enti inutili, cioè inutili per noi cittadini, per loro sono molto utili perché riescono a fottere soldi come voi, e quelli vengono pagati con i nostri soldi. Ma caro Milan, come stai? Ho sentito che hai parlato dei ricorsi sulla scuola. Il problema di questi ragazzi non, è che non hanno voglia di fare niente, visti, capito? Dalla mattina alla sera stanno a giocare, a fare i giochetti con il computer, con l'immufone, là con che cavolo si chiamano quegli attrezzi, e non studiano. Se fanno un bardaccio mio, lo sai? Lo maestro, se non avevi studiato, ti metteva il ginocchio sui ceci crudi per un quarto d'ora e poi portassimo i calzoni corti, eh? E ti facevano male allora, eh? E quando tornavi a casa, se si vedevano i segni sugli ginocchi, ci pigliavi pure il resto. Hai capito? Che li possino piglia fuoco a tutti quanti, ma questo per davvero, eh? A te te so un saluto particolare, eh? Che te possino piglia fuoco, ciao Mila. È tornato il nostro contadino di Terni, Vincino. Lo sai che questo per salutarmi, che te possino piglia fuoco. Questo è il suo saluto. Se la prendeva con i ragazzini che non studiano, eh. Che c'è? Il migliore, assolutamente lui. È il migliore, è il migliore. Che te possino piglia fuoco. Allora, tu prima hai annunciato la vicenda che proviene dal Giappone. Io ridevo come un matto, lo devo dire, mentre ascoltavo il dramma esistenziale, non capivo una parola ovviamente essendo in giapponese, ma le lacrime sono, come dire, universali e internazionali. Il politico Ryutaro Nonomura, 47 anni, accusato di aver sottratto 20.000 euro in corrispondente della valuta giapponese di soldi pubblici per viaggi privati, si è presentato alla stampa. In una conferenza stampa a un certo punto ha sommessamente singhiozzato per vergogna, sentite come. Ce l'abbiamo? Niente, no, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Sì, ma adesso ce l'abbiamo, forse sì, ce l'abbiamo. Chi le sa? Ce l'abbiamo, sì. Ma per 20.000 euro, ma su, ma Ryutaro Nonomura, ma sono 20.000 euro, ma dovresti prendere lezione qua dai politici italiani, ma su, ma dai, ma ti sembra il caso di piangere così? Ti permetto il suicidio rituale, no, però. No, adesso non scherziamo, perché non è detto, è finita la conferenza stampa su queste cose, però ma vogliamo risentirlo, ma vi prego, ha rubato, pare, 20.000 euro e in piena conferenza stampa ha avuto una crisi isterica di questo tipo. Ma che dovrebbe fare Franco Fiorito? Non lo so, Vincino. Che grande abbracciare. È colpa del partito. Attenzione, però, forse attenzione, facciamo un appello a tutti i giapponesi che magari sono all'ascolto. Magari ha detto è colpa del partito mentre piangeva. Tra le altre cose, potrebbe, chi lo sa? Potrebbe anche essere. Magari ha detto li ho presi a mia insaputa. È colpa della prefettura. Esatto. È la prefettura, i prefetti là, che poi non ho capito, la prefettura là in giapponese vuol dire un'altra cosa, vuol dire la provincia, la zona, non sono stato in Giappone. Magari non lo so. Con i proventi del libro andrò in Giappone. Andiamo da questo qua a vedere, verificare di persona se è o ci fa. Va bene. Allora, Vincino, tra l'altro devo dirti una cosa, noi ieri siamo andati a consegnare la coppa, sai che io durante la rassegna stampa do il premio La Carta Costa, no? Per l'articolo più inutile scovato quel giorno sui giornali. Ha vinto. Tu sei come quelli di Grillo là, che fanno premio a un giornalista al giorno. Esatto. No, ma simpaticamente io aggiungo sempre che anche loro, simpatica. Io aggiungo sempre che anche il microfono costa. Comunque ieri siamo andati da Sallusti, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, perché ha vinto in questa, così, questa competizione assolutamente lui vince spesso, amatoriale, no? Perché è stato più segnalato. Allora Sallusti ha letto per noi la classifica, senti che legge la classifica finale dell'anno, sentite. Questa è la classifica annuale, eh? Al primo posto si classifica Il Giornale. Con quante citazioni? 53. Davanti. Al Corsera 39. E poi? Stampa 36, Libero 33, Repubblica 22, Secolo 19, 13, Messaggero 8, Giorno 7, Fatto 6. Questo il fatto è Travaglio, come mai? Mi stupisce un po', ma che aspettate ascoltatori hai? Vanity Fair, Gazzetta. Manca su Radio 24 un giornale che non ha mai vinto il premio per l'articolo più inutile del giorno, è il Sole 24 Ore. È un chiaro caso di paraculismo e quindi insomma si può fare. Vabbè, questa è la classifica. Tutti utili i pezzi del Sole 24 Ore. Beh, certo, mi perde il rubinetto, via. No. 24 ore che assuppa tutto. Rientra in te, rientra. Poi con quel colorito rosa. Rientra in te, Vincino, rientra in te. Non so, già vedere, ancora non ha parlato del mio libro. Come panorama. Vabbè, allora. Pure il fatto, quelli gli rode. Vedi che era stupito Sallusti, come mai il fatto solamente 6 citazioni, effettivamente dice, ma che razza di ascoltatori hai? Sono tutti a dormire a quest'ora, siamo pochi quelli che svegli, in piedi, mettiamo in moto l'Italia noi, alle 5:30, 6. Come dico sempre io, poi i debosciati ci arrivano, si aggiungono. Ma si aggiungono. Tu continuerai tutta l'estate, ma non sì, detto, certo, sì. Tutta l'estate. Come no? Io dal primo agosto, anzi no, dal 27 luglio, cos'è? 25, manco ho perso. Sono 15 giorni, guarda, 16 giorni e poi vado in ferie, quindi dal 25-26 luglio. Mentre invece Vincino rimarrai qui, ovviamente. Assolutamente, tutta sì. L'estate. Domani mi trovi a Mondello. Domani, ecco, capite la bella vita di Vincino, a Mondello a mangiare gli spaghetti con i ricci. E vabbè, insomma. Che uscirà oggi per salutarci da questo patto elettorale? Ci sarà che cosa? Ma su cosa si incontra? Tu l'hai capito, la riforma elettorale, la riforma del Senato, l'abolizione delle province? Insieme, no, perché il problema è questo, siccome sono tutte stronzate, devono acchiapparle tutte. Non è che c'è. Si fa tanto per il problema è questo, fare vedere al Presidente della Repubblica che hanno fatto tutto, così lui poi se ne può andare perché non ne può più proprio di tutti questi, no? Perché l'ha sbagliati tutti, no? Ha sbagliato Bersani, Letta, proprio non li sopporta più, si trova reddito, guarda, c'è ancora 3 minuti, ma è pronta la cosa, devo andare, c'ha tutte le valigie pronte, la moglie Clio, la macchina, tutto a posto, è qua. E allora fanno questa cosa finta per farla andare via, no? Ecco, l'unico che non l'aveva capito è Mineo, perché quello proprio è scemo di testa, no. La nasce, lo conosco da quando aveva 18 anni là. Presiedeva l'assemblea a Palermo e faceva le scissioni sempre, scendeva sempre, sì. Vabbè, e poi difatti l'hanno tenuto in frigorifero per 30 anni a Rai 3 in un posticino là, quello del web dove lo vedevano in 10 in tutta Italia, e esce fuori e dice mi fa diventare tutti amici Vincino, mi fa diventare qua siamo ormai a posto, insomma, ci conosciamo un po' tutti, esatto, ci conosciamo tutti. Italia è questo, vabbè, no? Comunque comprate la cavalcata di Renzi, il libro di Vincino, 4,90 euro è veramente regalato, neanche 5 euro cioè vale praticamente un caffè in Giappone, più o meno un caffè in Giappone. A proposito di Giappone, mi suggeriscono che potrebbe aver detto il giapponese sono stati Milan e Vincino, io sono innocente tra le lacrime che vi vogliamo far risentire del giapponese accusato di aver rubato 20.000 euro. Che te fossi un video fuoco, ciao Milan. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:17, cari debosciati d'Italia, è il momento di produrre, come vi invito a fare tutti i giorni, simpaticamente. C'è ancora chi mi scrive tutto arrabbiato, mamma mia, svegliatevi con un sorriso, che magari la vita vi sorriderà, eh? Che dite? Allora, oggi parleremo di che cosa? Parleremo un po' di questa vicenda ancora drammatica che riguarda i migranti. Avremo la portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, l'italiana Carlotta Sami, sarà nostra ospite alle 8:45. Parleremo però anche del dopo sentenza della vicenda Baby Squillo. La cosa che più mi ha colpito, e parleremo con un magistrato, Fabio Roia, che si occupa di tematiche di rapporti familiari all'interno della Procura di Milano, e parleremo con l'avvocato di una delle due ragazze, soprattutto di questa decisione di togliere la potestà genitoriale alla madre che è stata condannata, la madre di una delle due baby squillo dei Parioli. Tra l'altro oggi sul Messaggero lei, questa ragazza, dice invece voglio mia mamma. E questa ovviamente è la decisione, al di là delle pene, visto che non dobbiamo fare i processi in radio, che più mi ha colpito e sulla quale vogliamo fare alcune riflessioni. Questo dalle 8:15. Poi oggi sentiremo la voce del direttore del giornale Alessandro Sallustri, al quale ieri abbiamo consegnato la coppa per la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Ha vinto lui la classifica annuale e oggi ne sentiremo le considerazioni molto molto simpatiche. Allora andiamo a sfogliarli questi giornali. Giovedì 3 luglio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore ha in prima pagina l'intervista a Jamie Dimon. Chi è il numero uno, il amministratore delegato di JP Morgan? Più credito per la crescita europea, questo è il titolo dell'intervista. Ieri, tra l'altro, Dimon è diventato, ha conquistato tutte le prime pagine dei giornali perché ha annunciato a tutti i dipendenti, con un gesto anche abbastanza clamoroso, facendo stralli della propria privacy. Non è il primo diciamo manager che fa questo. Ha annunciato a tutti i suoi dipendenti di avere un cancro alla gola curabile. E ha voluto annunciarlo, e si racconta oggi sui giornali anche questa decisione molto molto personale da parte del numero uno di JP Morgan. Comunque c'è l'intervista che poi leggeremo sul Sole 24 Ore. E poi ovviamente l'Europa su tutti i giornali, scontro sul rigore in Europa, il titolo di apertura del Corriere della Sera dopo il discorso di ieri di Renzi e soprattutto la replica al capogruppo del tedesco del PPE. Repubblica, Renzi, l'Europa cambi o non ha futuro, scontro con i tedeschi sulla flessibilità. Per il giornale, dichiarazione di guerra addirittura il titolo, mentre la Stampa, flessibilità, la sfida di Renzi. Per il Fatto Quotidiano, dà lezioni all'Europa e si scorda le auto blu. È una vicenda che tra poco vedremo, un decreto sulle auto blu che sarebbe sparito, dice il Fatto Quotidiano. Per Libero, Renzi trova il suo capò e lo manda al diavolo. Renzi, scontro col PPE, questo è il titolo del Secolo XIX. Renzi, scontro con i tedeschi, questo è il titolo del Messaggero. Come vedete, la mettono in maniera frontale. L'unità, la crescita di Renzi, spacca l'Unione Europea. Allora, intanto da cosa voglio partire? Tra poco vedremo le questioni dell'Unione Europea, ma intanto torna la questione dei tagli alla Camera. Allora ci siamo, oggi Repubblica, dopo che l'aveva fatto il Corriere, racconta di come si stia pensando di tagliare e mettere il tetto di 240.000 euro, che vale per tutti i dipendenti pubblici come tetto massimo, anche ai 1.442 dipendenti di Montecitorio. Repubblica dice scure della Boldrini sui salari. Dal segretario generale ai commessi, cura dimagrante anche al Senato. Tommaso Ciriaco ne parla a pagina 8, parla di ghigliottina ormai pronta, nonostante resistenze e mille veleni si abbatterà prima della pausa estiva sugli stipendi dei dipendenti parlamentari. Stando a tabelle limate in queste ore, se il taglio venisse esercitato in un'unica soluzione farebbe risparmiare solo a Montecitorio circa 20 milioni di euro l'anno. La novità più significativa riguarda il nuovo tetto dei salari, 240.000. Attenzione però, anche qui c'è sempre l'inghippo nei dettagli. Non sarà proprio 240.000 euro. Per esempio, il segretario generale appena nominato percepisce 406.000 euro. Ora, con la riforma, voi direte scenderà 240.000 euro. No! No! 240.000 euro il tetto e 60.000 di indennità di funzione. 300.000 euro. C'è sempre qualche cosa che porta a derogare a delle regole. Il suo vice passerà dagli attuali 305.000 euro a 270.000 euro, quindi evidentemente anche lui 240.000 di tetto e poi 30.000 di euro di indennità di funzione. Comunque arriva la scure, arriva la ghigliottina sui salari. Certo, è una ghigliottina che li manterrà ben alti, ma questo è e questo succederà. Ora invece voglio andare sul Giornale. Il Giornale oggi fa un reportage di quelli, come si dice, con l'inviato che va a fare uno dei gran classici, e cioè commettere in qualche modo anche un reato per il quale si autodenuncia l'inviato del Giornale, Nino Materi, mettendo il dito nella piaga però di quello di cui ci siamo occupati anche noi la scorsa settimana, cioè gli scarsi controlli o quello che succede, secondo alcuni, lo sfascio della situazione a Pompei. Allora, che ti ha combinato il Giornale? Ha mandato Nino Materi a rubare dei reperti storici negli scavi di Pompei, rubare temporaneamente, poi ovviamente tutto corredato da fotografie, dopodiché tutto è stato rimesso al suo posto. Ho rubato reperti storici negli scavi di Pompei nell'indifferenza di tutti. Pagina 12 e 13 del Giornale. Racconta Nino Materi: il sole batte forte tra gli scavi di Pompei, lo zainetto pesa, è colmo di ruderi archeologici, macerie di vecchie mura risalenti all'eruzione vesuviana del 79 d.C. So per certo che raccoglierle da terra e nasconderle nella mia borsa nera è stata la cosa più facile del mondo. Nessuno mi ha visto, nessuno poteva vedermi. La ragione è semplicissima. Attorno a me, nel raggio di decine di metri, non c'era neppure un custode e né una telecamera di sorveglianza. In compenso, durante la furtiva passeggiata col bottino archeologico a tracolla, ho incrociato lo sguardo stupito di qualche turista che, buttando un occhio alla mia borsa, forse è stato attraversato dal dubbio: ma che ci fa quello lì con la sacca piena di pietre, non le avrà mica rubate. Per qualche metro ho proceduto lungo Via dell'Abbondanza, la strada che sta all'antica Pompei, come Via Condotti sta la Roma moderna, perfino con una stele sulle spalle indicante il luogo di provenienza del mantolto, casa della nave europea, una delle domus più ammirate dai visitatori. Ma anche in questo caso nessuna reazione da parte dei custodi, anche perché di custodi, lo ribadiamo, non ne abbiamo mai incontrati. Anzi no, per la precisione siamo incappati in una guardia solo davanti al tempio di Apollo, tra le mete più gettonate del tour pompeiano. Torniamo al furto archeologico. Per evitare grane giudiziarie, scrive l'inviato del Giornale, provvedo hic et nunc a confessare la mia marachella all'assessore comunale alla legalità, dottor Diego Marmo, il PM ora in pensione, che definì Enzo Tortora un cinico mercante di morte. Hai visto mai che il giudice Marmo definisca pure me un cinico mercante di reperti archeologici? Vabbè, insomma, c'è spazio anche per la polemica per la nomina di cui abbiamo già parlato, dell'assessore alla legalità a Pompei. E tutto corredato da foto, ecco la sacca col bottino, addirittura con la stele in spalla, e poi reperti archeologici ficcati così nella borsa a tracolla e senza che nessuno dica niente. Vabbè, susciterà le solite polemiche anche questa azione dell'inviato del Giornale. Come detto, noi parleremo invece della vicenda della delle baby squillo. Abbiamo sentito che la vicenda giudiziaria continua con il processo. Il Messaggero dedica ancora due pagine a questa vicenda. 14 e 15 clienti verso il processo saranno indicati dalle ragazzine, e quindi dovranno ora procedere anche queste ragazzine al riconoscimento dei loro clienti. C'è anche un'intervista ad Anna Passannanti, sempre sul Messaggero, la intervista a Silvia Barocci. Anna Passannanti è procuratore capo presso il Tribunale dei Minori dell'Aquila, che effettivamente si pone un'altra questione che chiederemo anche al magistrato Fabio Roia: il risarcimento chiesto alla madre, cioè la madre che è stata condannata, la madre di una di queste due ragazze, alla quale è stata tolta anche la potestà genitoriale, e questa madre è stata anche condannata a risarcire la figlia. Ed è il primo caso, dice il procuratore Passannanti, intervistata dal Messaggero, è il primo caso e non mi è mai capitato di imbattermi in una richiesta di risarcimento danni in sede civile promossa da un minorenne contro il genitore. Non bastava la condanna penale? Chiede il Messaggero. Indubbiamente anche a me è venuto in mente che se c'è una difficoltà di rapporti tra madre e figlia, la richiesta di risarcimento in sede civile rischia sicuramente di approfondire la frattura. Ovviamente ne possiamo ragionare in astratto, ogni caso concreto è a sé stante. Venuta meno la potestà genitoriale, il tutore nominato dal Tribunale dei Minori fa le sue valutazioni. Certo, non nascondo perplessità sulla richiesta di rivalsa in sede civile. E a mia memoria non mi è mai capitato, non mi è mai accaduto, ma non posso escludere ovviamente che ci siano stati altri casi. Beh, chiaramente questo è il tema che affronteremo alle 8:15. Ora andiamo in pubblicità, poi riprenderemo da che cosa? Renzi e l'Europa, Renzi e la generazione Telemaco, ma soprattutto Renzi e la risposta sfrontata e molto, molto dura al capogruppo tedesco della PPE, Weber, che ha detto ci vuole rigore, e Renzi ha detto non prendiamo lezioni da chi ha sforato in passato il 3%. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Ah, questo mancava da un po', Sono le 7:34 minuti, siamo qui ancora a leggere i giornali con Matteo Renzi, che è andato ieri a Strasburgo a fare il discorso, una ventina di minuti a braccio, per l'apertura del semestre di presidenza europea della parte dell'Italia. Il momento clou, a parte le citazioni, siamo la generazione Telemaco, ci vuole la crescita, insomma queste le abbiamo sentite da ieri fino a oggi anche nei giornali radio, ma il momento clou che è stato colto dai giornali è quando il tedesco Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo, ha preso la parola, ha detto no, ci vuole rigore, rigore, rigore, no la flessibilità, e anche Renzi ha ripreso la parola come controreplica, ha detto non accettiamo lezioni morali da chi la Germania in passato ha sforato questo 3%. Apriti cielo, tutti i giornali raccontano dello scontro tra l'Italia e la Germania, addirittura per Libero Renzi trova il suo capo, ricordate la vicenda Berlusconi-Schulz, e lo manda al diavolo, per il giornale addirittura dichiarazione di guerra. Comunque il Sole 24 Ore racconta con Gerardo Pelosi: senza crescita l'Europa non ha futuro. L'Italia non chiede scorciatoie, ma non accettiamo lezioni dalla Germania. E a proposito di Germania, Repubblica intervista proprio Manfred Weber a pagina 3. Lo fa con Alberto D'Argenio: i debiti uccidono il futuro, chiedere tempo per fare le riforme significa fare nuovi debiti. Così Manfred Weber, il nuovo nemico dell'Italia per i giornali, inizia l'intervista: mi scuso con Renzi, non ho potuto ascoltare la sua replica, ma è importante che anche Renzi e il PSE riconoscano che i testi vanno bene, ma bisogna dire che la flessibilità significa fare nuovi debiti. Se cediamo a questo richiamo rischiamo di deragliare. La Francia ne è stato l'esempio perfetto, hanno fatto riforme deludenti, per questo non ci fidiamo dei governi del PSE. Maastricht, ricorda Weber, dice che il traguardo è lo 0% di deficit, il 3% è il tetto massimo. Per noi si tratta di riconoscere politicamente che i debiti distruggono il nostro futuro. Sulle riforme abbiamo bisogno di fatti e non di parole. Il governo italiano le faccia e poi parleremo di tutto il resto. Ma la reazione di Renzi, un po' stizzita lì a Strasburgo, viene poi rinfrancata da un retroscena del Corriere della Sera, Tommaso Labate, a pagina 3. Renzi non si preoccupa più di tanto di quella che è stata questa schermaglia, perché dice ai suoi: a me non fanno paura i cani da guardia, né in Italia né in Europa. Weber non è la Bibbia. Io faccio riferimento al mio rapporto con Angela Merkel. Queste le stilettate di Renzi, che dice dunque, in qualche modo... Io il mio rapporto con la Merkel non, certo, non si fa mettere sotto da un Weber qualsiasi. E quindi, stuzzicato poi da Vespa, perché è andato a porta, anche basta le due parole che ha ripetuto Renzi, l'idea che ci sia una maestrina con matita rossa e blu che dà le bacchettate sulle dita, e la maestrina può chiamarsi sia Europa che Germania, anche basta. Questo potrebbe essere il nuovo slogan europeo di Renzi. Anche basta, fa sapere il giornale. Fa sapere il Corriere della Sera. No, ho detto il giornale perché ho già sul titolo del giornale: finalmente il Premier si infuria e manda un vaffa alla Germania. Tra l'altro non c'è giornale, non c'è quotidiano che non abbia proprio paragonato questa reazione di Renzi alla ben più colorita reazione di Berlusconi contro il capo Schulz. Quando gli diede del capò, reazione ben più stizzita quella di Berlusconi, ma certo tutti ricordano con foto il precedente scontro Italia-Germania in politica. Ha parlato anche Nigel Farage, leader UKIP, coloro che si sono girati di schiena all'inno alla gioia nel giorno prima, vale a dire il giorno in cui si sono insediati gli europarlamentari. Intervistato dal Messaggero, dice: Matteo è funny, bravino e funny, gli do 7 in pagella. Mediaticamente funziona, è simpatico, sui contenuti va molto meno bene. Renzi chi? Dice Grillo. Ma no, io l'ho conosciuto, mi sono reso conto di chi è, sa il fatto suo, ma non credo che potremo collaborare con lui. Lo ascolteremo sempre, ma le spalle le diamo all'inno d'Europa. Non riconosciamo quella canzone, non ci piace quella bandiera, è tutto un imbroglio. Così Farage, che sapete è un euroscettico, se non euroscetticissimo. E allora dice Renzi, anche lui è spaventato come tutti. Da che cosa, chiede il Messaggero? Ma dall'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Cercano di convincere Cameron a restare in Europa, ma la maggior parte di noi non vuol pagare 50 milioni di sterline per un'istituzione che parla di inni e perde tempo e denaro. A proposito di denaro, ha fatto anche scalpore l'uscita di Beppe Grillo l'altro ieri, che dice all'Unione Europea: non date più i soldi all'Italia come fondi europei, perché vanno a finire sempre in 3 regioni del sud, Calabria, Campania e Sicilia, e finiscono alla mafia. La Stampa dedica una pagina a questo tema: i governatori del sud tutti uniti contro Grillo, a pagina 5. Amedeo La Mattina, c'è anche un'intervista al presidente della regione Sicilia, Crocetta: se si bloccano i fondi consegniamo alla mafia gli imprenditori onesti. Dice Crocetta, quello di Grillo un discorso vergognoso. La mafia non è scomparsa, ma dico che la criminalità organizzata ha tentacoli in tantissimi altri paesi. Grillo fa un'analisi che piace molto ad alcuni gruppi xenofobi italiani e stranieri. È chiaro che in passato c'è stato un uso scellerato delle risorse europee e non europee, ma è avvenuto anche in altri paesi e l'Europa ha fatto molto poco. E trovo disgustoso che mentre c'è un presidente della regione, parla di se stesso, che sta facendo la più grande battaglia mai fatta in Italia e in Europa, si possano fare certe affermazioni sulla gestione politica della Sicilia. Al che Amedeo La Mattina dice: scusi, sta facendo del vittimismo, Crocetta. Ma no, sto dicendo che sono impegnato tutti i giorni contro la burocrazia, denuncio alle procure il malaffare che incontro, faccio il rendiconto delle spese in maniera trasparente. Vabbè, Crocetta si risente per le frasi di Grillo, mentre invece, oltre a Farage che gli dà 7, c'è stato anche un endorsement non indifferente ieri: Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi, nella presentazione dei palinsesti Mediaset, ha fatto un endorsement nei confronti di Matteo Renzi. Ha detto che le riforme ci sono e la sua posizione è molto chiara. Se a decidere dovesse essere lui, non solo Forza Italia voterebbe le riforme, ma passerebbe direttamente in maggioranza. Questo è l'endorsement più convinto a Matteo Renzi, arriva da Pier Silvio Berlusconi, come racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera a pagina 4. Ha creato anche un certo sconcerto tra gli azzurri che prendono off the record, cioè lontano di dichiarazioni ufficiali, le distanze da Pier Silvio Berlusconi, dicendo che la sua posizione non è quella del partito. La linea però di Pier Silvio Berlusconi è proprio questa, un'opinione di stabilità, riforme che facciano partire l'economia e l'augurio che possa farle e possa mantenere le promesse Matteo Renzi. Questo l'endorsement. Matteo Renzi che ieri tra l'altro è andato a porta, questo inciso, c'è anche una polemica sui giornali perché per la prima volta nella storia un leader che prende la parola e prende la presidenza del semestre europeo non ha fatto la conferenza stampa tradizionale alle 17 perché ha detto ho impegni istituzionali, devo andare a porta e si è presentato ieri in porta a porta, quella versione prima serata. Libero se la prende molto, il premier tradisce l'Europa con Vespa, è andato a porta. Certo, le riforme si faranno, ma intanto continuano anche un po' di critiche. Per esempio Il Fatto Quotidiano, che non sta risparmiando critiche in questi giorni all'operato del governo, ma fa due pagine, la prima a dire è scomparso il decreto sulle auto blu. Pagina 5 del Fatto Quotidiano, nemmeno le auto blu. La guerra di Cottarelli per trovare 32 miliardi, racconta Stefano Feltri. Carlo Cottarelli ha molte idee, lavora da mesi chiuso nel suo ufficio al Tesoro, visto che il trasloco a Palazzo Chigi non si è mai fatto, ma sulle auto blu. Per esempio, il 18 aprile Renzi annunciava che direttori generali e sottosegretari andranno a piedi o in autobus. Il decreto legge sugli 80 euro del 24 aprile stabilì che con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto col Ministro dell'Economia, è indicato il numero massimo non superiore a 5 per le auto di servizio a uso esclusivo. Ebbene, quel decreto, scrive Il Fatto, non è mai arrivato. Le auto blu sono state ridotte soltanto al Ministero del Tesoro, dove lavora Cottarelli, da 24 a 12, coi vertici che devono prenotarsi per usare la vettura di servizio. Le altre 6.500 auto blu sono ancora tutte in servizio. E com'è questa cosa? E Il Fatto Quotidiano rincara la dose a pagina 4 dicendo «Nomine, ecco il Granducato renziano». Da Palazzo Chigi a Bruxelles, dalle società pubbliche al sottogoverno, ormai Roma si sta trasformando in un Granducato di Toscana. A cominciare dai ministri, Maria Elena Boschi, il sottosegretario Luca Lotti, il tesoriere del PD che è Bonifazi, anche lui toscano e amico di Renzi, Simona Bonafè, Erasmo D'Angelis, già consigliere regionale in Toscana ai vertici di Publiacqua, dopo essere stato sottosegretario ai trasporti, fa il capo struttura di missione contro il dissesto idrogeologico a Palazzo Chigi. Poi capo dell'ufficio legislativo della presidenza del Consiglio è stata chiamata Antonella Manzione, ex capo dei vigili a Firenze. E poi il fotografo ufficiale di Palazzo Chigi, Tiberio Barchielli, chiamato da Rignano sull'Arno, conosceva da tempo Renzi. Insomma, un lungo elenco di nomine che stanno trasformando, racconta Il Fatto Quotidiano, Roma nel Granducato di Renzi. Alessandro Milan, Lorenzo Canà, dell'informazione. Addirittura. Comunque, a proposito di riforme, invece oggi c'è un incontro importante. Renzi si vede con Berlusconi. Si vede con Berlusconi, Renzi blinda il patto con Berlusconi, questo è il titolo di pagina 8 del Sole 24 Ore, il vertice sull'Italicum, il vertice sul Senato, staremo a vedere se porta a qualcosa. Voglio però andare su una notizia economica con l'intervista, appunto, che è l'apertura del Sole 24 Ore al numero 1 di JP Morgan, Jamie Dimon o Dimon. Anche qui sulla pronuncia poi ognuno avrà da ridire. Tra l'altro, il numero uno di JP Morgan ieri è diventato il centro della cronaca, perché oltre ad essere il manager, banchiere, forse più della banca più importante e più celebre al mondo, anche da alcuni molto criticata, è il banchiere che ha annunciato ieri di avere un tumore alla gola, un cancro guaribile. Lo ha fatto con un gesto che Repubblica mette in pagina 19 con Federico Rampini: annuncio shock del lupo di Wall Street, ho un tumore. E lo ha detto a tutti i dipendenti, dicendo la banca comunque va avanti. Tra l'altro doveva fare un viaggio in Italia, doveva incontrare vari personaggi, anche il presidente del Consiglio Renzi. Questo non gli impedisce di fare un'intervista al Sole 24 Ore ad Isabella Bufacchi: più credito per la crescita europea, la crisi è alle spalle ma servono regole certe per attrarre capitali. Ovviamente l'intervista è molto lunga, inizia in prima pagina e continua a pagina 5. In sintesi, cosa dice il numero uno di JP Morgan? L'Italia si sta riprendendo, l'Europa si sta riprendendo, questa è la ragione per cui JP Morgan non ha mai lasciato l'Italia, nemmeno durante le fasi più critiche della sua economia. L'Italia e l'Europa devono competere con adeguate scelte di politica economica e fiscale, una chiara regolamentazione bancaria, tutto questo contribuisce a migliorare la crescita. Sono favorevole a una forte regolamentazione bancaria, ma comprendo la difficoltà delle banche europee, vorrebbero erogare più credito, ma sono sotto pressione perché devono ridurre la leva e le esposizioni ai rischi. I governi europei dovrebbero adottare politiche equilibrate per incoraggiare le banche anche a finanziare l'economia e restare e prestare denaro, soprattutto alle piccole e medie imprese. Dice infatti Diamond: noi diamo soldi alle piccole e medie imprese solamente negli Stati Uniti e non in tutto il mondo, perché le regole lì sono migliori. Comunque, l'intervista nella quale annuncia anche la sua decisione di comunicare questa vicenda sulla sua salute personale: sebbene la terapia ridurrà i miei viaggi in questo periodo, sarò in grado di continuare a seguire da vicino in maniera attiva il business della banca, e la banca andrà avanti normalmente, solo mi dispiace per questo tumore di non poter fare il mio viaggio annunciato da tempo anche in Italia. L'intervista numero uno di JP Morgan è l'apertura del Sole 24 Ore. Ci sono tante altre notizie che affronteremo, la questione dell'emergenza migranti la affronteremo con Carlotta Sami, che è portavoce del commissariato per i rifugiati dell'ONU, e perché la situazione è davvero difficile. C'è da notare, da far notare anche la svolta di Alfano sui gay, su Repubblica, pagina 9, sì alle unioni civili. È l'apertura del nuovo centrodestra, ma dice Alfano anche più aiuti alle famiglie, famiglie che devono essere sempre famiglia tradizionale tra uomo e donna, ma rispettiamo l'affettività di tutti, e se c'è da garantire maggior tutela ai problemi delle tante persone che convivono, noi siamo pronti. Questa è l'apertura del nuovo centrodestra, ma non si tocchi la famiglia naturale composta da uomo e donna, così Alfano su Repubblica. Va bene, oggi non c'è il premio La Carta Costa all'articolo, perché c'è di meglio. Oggi c'è, beh, intanto la proclamazione ufficiale, lo sapete, io su Twitter lo dico, il giornale ha vinto la classifica che teniamo ogni anno e ogni giorno con le citazioni dell'articolo più inutile che scoviamo e che scovo qua e là, ovviamente sempre a mio insindacabile giudizio. Allora ieri siamo andati a consegnare su Twitter, la potete vedere sul mio profilo Alino Milan, la coppa di carta, una coppa di cartone, al direttore del giornale Alessandro Sallusti, che molto simpatico praticamente accettato ovviamente questo nostro riconoscimento. Alessandro Sallusti, che sentiamo, l'abbiamo intervistato al momento della consegna. Sono onorato, mi sembra un po', adesso io non so il contenuto delle votazioni, innanzitutto ci sono le documentazioni di queste votazioni. No, certo, le decido io ogni giorno a mio insindacabile giudizio. No, sono onorato ma anche un po', come dire, dispiaciuto, perché secondo me altri colleghi, altri giornali meritavano. Per esempio? L'articolo più inutile è un giornale come Repubblica che sostiene le promesse di Renzi, mi sembrano abbastanza più inutili di quindi facciamo qualsiasi promessa di Berlusconi. La vera classifica ricerca di Sallusti al primo posto. Chi sostiene le promesse di Renzi direi che sono abbastanza inutili. Repubblica al primo posto per gli articoli più inutili. Al secondo posto alla memoria, chi ha sostenuto le promesse di Monti, Corriere della Sera. Corriere della Sera. Terzo posto, perché abbiamo già dato, chi ha sostenuto le promesse di Berlusconi, giustamente, ma almeno terzo. Allora, però attenzione, c'è anche una dedica, eccola qua, la carta costa edizione 2013-2014 al Giornale da Radio 24. C'è anche un editoriale di Sallusti, credo. Questa è la vera cosa inutile, sì, è la vera cosa inutile. Ecco. Abbiamo tolto Berlusconi e abbiamo messo la carta costa, questo è ufficiale. Beh, mi sembra più, sono più orgoglioso di questo comunque, sì. Sono più orgoglioso di questo. Va bene. Tra l'altro, per chiudere, dobbiamo dire che venendo qui abbiamo intervistato un po' di persone, mi hanno detto andiamo da Sallusti, lo conosce? E molti hanno detto, ma chi è il compagno della Santanchè? Ecco, questa è l'ammazzata finale. Vabbè, questo in maniera molto simpatica, ovviamente un ringraziamento ad Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, che ha vinto quest'anno con 53 citazioni davanti al Corriere della Sera con 39, La Stampa 36, Libero 33, Repubblica 22, Il Secolo XIX 13, Il Messaggero 8, Il Giorno 7, Il Fatto 6 e Vanity Fair, la Gazzetta dello Sport una citazione. Non c'è Il Sole 24 Ore, oggi non c'è neanche Mauro Meazza, ma la recupereremo domani. Non c'è Il Sole 24 Ore, io dico sempre simpaticamente, un chiaro caso di paraculismo, insomma dai, cercate di capirmi. E poi, come dico sempre io simpaticamente, è un concorso molto molto tenero, visto che aggiungo sempre su Twitter, se la carta costa, ricordate che anche il microfono costa, e soprattutto mai prendersi troppo sul serio. 24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui a parlare, come detto più volte quando ci occupiamo di fatti di cronaca, la premessa vale anche oggi, non ci sono processi da fare, soprattutto qui a Radio 24, ma men che mai altrove, i processi avvengono sempre nelle aule giudiziarie, ma nella vicenda delle cosiddette baby prostitute dei Parioli a Roma, ci sono alcune riflessioni che si possono fare. Intanto partiamo dalle condanne che ci sono state l'altro ieri, in tutto 38 anni per gli imputati, gli sfruttatori, ma anche la mamma di una delle due ragazzine e 5 clienti che hanno chiesto il rito abbreviato. Ebbene, le riflessioni da fare sono soprattutto quello che è successo alla mamma di una delle due, perché oltre alla condanna in primo grado, ovviamente, ricordiamo, le decisioni che mi fanno riflettere è il fatto che il giudice ha disposto anche che sia stata tolta la potestà genitoriale, quindi di fatto non è più al momento la mamma, oltre ai diritti di successione alla figlia. E poi la seconda considerazione, rischia anche di dover risarcire in sede civile la figlia minorenne. E sono cose che mi hanno colpito e delle quali si può discutere. Lo vogliamo fare con l'avvocato difensore della mamma, appunto, che è stata condannata, Nicola Santoro. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Così come voglio salutare Fabio Roia, che è stato varie volte nostro ospite, giudice alla sezione soggetti deboli al Tribunale di Milano. Buongiorno, è grande esperto di queste tematiche. Buongiorno, dottor Roia. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Guardate, oggi sul Messaggero il procuratore capo dell'Aquila, del Tribunale dei Minori dell'Aquila, Anna Passannanti, fa un'intervista e dice: effettivamente non mi era mai capitato, almeno a mia memoria, può darsi che ci siano dei precedenti, ma non mi è mai capitato di dover affrontare l'idea che addirittura una madre debba risarcire o possa rischiare di risarcire in sede civile la figlia minorenne, perché questo rischia di aumentare addirittura la frattura, una frattura che già c'è stata per la vicenda, già c'è stata per la condanna, già c'è stata per gli è stata tolta la potestà genitoriale, immaginate anche se deve risarcire dal punto di vista civile. Ma lo chiedo in maniera laica e senza moralismi, dottor Roy, a lei è capitato di situazioni simili, di richieste di risarcimento civile? Beh, direi di sì, quando c'è un conflitto fra situazione del minore e situazione del genitore, come c'è in questo caso, normalmente viene nominato un curatore speciale che cura gli interessi del minore, E quindi il minore è una parte diversa rispetto alla madre. Capita molto spesso, per esempio, nei casi di abuso intrafamiliare, dove la madre ha una situazione non protettiva e può arrivare addirittura a rispondere come l'agente abusante, che normalmente può essere il padre o il convivente o un altro soggetto maschile all'interno della famiglia, per una condotta di tipo omissivo. Sono situazioni abbastanza frequenti per chi tratta questo genere di reati, così come è abbastanza frequente la condanna, che poi è una pena accessoria, quella a cui lei faceva riferimento, della sospensione e perdita della potestà genitoriale, perché è una norma del codice penale generale che prevede che quando un genitore commetta un fatto con abuso della potestà, ne consegua, il giudice possa applicare, in questo caso deve applicare per il tipo di reato che è stato contestato e che è stato accertato, la pena accessoria della sospensione o della perdita della potestà genitoriale. Quindi avviene più frequentemente di quanto si possa pensare. Questo però non pone delle problematiche, che voglio dire, stiamo parlando di soggetti minorenni e quindi anche di rapporti familiari molto, molto delicati, che magari incideranno anche per il futuro. Mettiamo il caso, voglio dire, c'è una pena da scontare quando sarà in via definitiva, ma scontata la pena si sa, la persona rientra nella società. Già, ma quel rapporto lì come lo si recupera quando succedono queste cose? Quello è un problema che riguarda, come dire, il rapporto relazionale, la sociologia, la psicologia, tutte le scienze complementari a quella giuridica. Teniamo presente che quando la ragazza sarà maggiorenne, ovviamente potrà scegliere di fare tutti i percorsi che ritiene più utile, quindi potrebbe anche riavvicinarsi alla madre, potrebbe arrivare a comprendere il fatto, eccetera. Qui parliamo di un interesse nei confronti di un minore, laddove si è verificato, ovviamente in ipotesi, essendo una sentenza di primo grado, che la madre non ha svolto quella funzione di protezione, si chiama posizione di garanzia, che normalmente viene richiesta ed imposta ai genitori nei confronti dei figli. Quindi in questo caso, come dire, l'apparato statale è intervenuto a tutelare un minore, laddove questo minore non solo non è stato tutelato dalla madre, ma addirittura è stata in qualche modo sfruttata questa debolezza e questo furto alla vita, che poi è il dedicarsi ad un'attività di prostituzione da parte di un soggetto minorenne. Io devo dire 800 24 00 24, come sempre, è il numero se volete intervenire, se volete fare qualche considerazione, visto che questa vicenda ha occupato, tra l'altro, per mesi e mesi, no, forse per mesi no, ma mesi fa ha occupato per giorni le prime pagine dei giornali, ha occupato anche in maniera, come al solito, molto cialtrona alcune trasmissioni televisive, ma questo purtroppo capita. Avvocato Santoro, lei è l'avvocato appunto della madre che è stata condannata. La pena esattamente in primo grado che è stata inflitta quanto è? 6 anni e 20.000 euro di multa. E 20.000 euro di... La multa per che cosa, mi perdoni? No, fa parte della vena prevista dal reato. Ecco, oggi leggo anche sul Messaggero, insomma, come detto, intanto la premessa la faccio anche a lei, insomma, i processi non si fanno qui, ci sarà un appello, ci sarà un terzo grado di giudizio. So che la madre continua a proclamarsi innocente, questo però evidentemente non è stato creduto dai magistrati. Ma sì, non c'è dubbio, insomma, il giudice ha ritenuto plausibili le considerazioni fatte e la ricostruzione dei pubblici ministeri. La signora è stata ritenuta responsabile del reato di sfruttamento nel merito, cioè è stata considerata responsabile con dolo eventuale, cioè la signora avrebbe accettato, conosciuto l'attività posta in essere dalla figlia ed accettato le conseguenze. Addirittura avrebbe quasi incentivato questa attività. Sì, questo è oggetto di una intercettazione in particolare, avrebbe comunque tratto alcuni proventi da questa attività illecita. Questo è quello che è stata l'accusa ed è stato ritenuta credibile dal giudice. Lei sa che io ho letto molti commenti su questi giorni dopo la sentenza, molto molto duri, a dire anche proprio se questa è una madre, evocando anche tra l'altro un titolo di un libro ben diverso, diversamente tragico. Non ho visto molta voglia di comprensione in questo rapporto tra madre e figlia, in quello che ho letto nei giornali in questi giorni, come dire, come quasi fosse indifendibile. Ma guardi, il problema di questa vicenda è appunto il tipo di approccio che si fa, quello giuridico o quello morale. Per quanto riguarda quello morale ci sono ben poche giustificazioni, è chiaro, e questo lo ha riconosciuto anche la signora stessa. chi non è stata in grado di essere una buona madre. E questo è un percorso che la signora sta prendendo. Cosa diversa è appunto la questione sul rapporto tra madre e figlia, chiaramente non essendovi stato alcuna costrizione, alcun episodio di violenza, non vi è un rapporto conflittuale tra madre e figlia che vorrebbero ritrovarsi, al momento non possono farlo perché c'è una misura cautelare ancora in atto, ma quando la figlia raggiungerà la maggiore età sicuramente si troveranno, e questo chiaramente collima con la costituzione di parte civile fatta dalla figlia nei confronti della madre e il risarcimento che allo Stato, però ricordo, è ancora totalmente da quantificare, verrà quantificato in un separato giudizio civile e non è stata appunto applicata una provvisionale come era stato richiesto, sì, invece dalle parti civili. Ecco, verrà richiesto nel caso da chi? Immagino dalla persona, dottor Roia, chi ha il dovere in questo caso o la possibilità di richiedere risarcimento civile? Il tutore, diciamo, la persona? Io credo, non lo so nel caso di specie, ma normalmente viene nominato un curatore speciale quando c'è un conflitto di posizioni processuali fra un soggetto minorenne e un genitore, in questo caso la madre. E questo curatore che viene nominato, dipende dalle fasi, normalmente dal giudice dell'indagine, indagini preliminari, è quello che può costituirsi parte civile nel procedimento e poi fare l'azione di risarcimento in sede civile qualora il giudice non abbia accolto le richieste in sede penale. Tra l'altro io vorrei capire, avvocato Santoro, perché i giornali raccontano di una madre pentita, lei pentita insomma di tutta questa vicenda, anche pentita evidentemente di quello che ha fatto, mi sembra di capire anche dalle sue parole che un po' è così. Assolutamente pentita, perché lei si è resa conto che come madre ha fallito, ma questo è un eufemismo, perché chiaramente la non consapevolezza di questa attività di prostituzione passava attraverso in realtà la consapevolezza di un'altra attività delittuosa, quindi sotto il profilo umano non è giustificabile, né lei cerca giustificazioni. Altra cosa è la responsabilità del reato così come è contestata, che non si sente di accollare. Questo diciamo che si vedrà in appello, si vedrà. Tra l'altro, esatto, se non sbaglio, sono state fatte anche delle richieste e sono state date delle pene da parte del giudice per l'udienza preliminare, credo anche in alcuni casi superiori a quelle che erano richieste da pubblica accusa. Quindi. Sì, in realtà sì, la posizione della mia assistita è l'unica in cui c'è stata una conferma, poi vi è stato un caso in cui vi è stata una riduzione, tutti gli altri casi vi è stato un aumento della pena rispetto alla richiesta dei pubblici ministeri. Beh, insomma, come vedete le tematiche sono queste, ci sono anche le considerazioni morali che, come giustamente dice l'avvocato Santoro, devono come dire, essere tenute separate, se si vuole, dalla vicenda giudiziaria, però dottor Roia, non è che in alcuni casi c'è il rischio anche che le considerazioni morali entrino a far parte del processo, cioè come io mi metto nella testa di un magistrato che deve decidere, di un giudice, deve tener conto anche di considerazioni morali, sì o no, e se sì o no mi dica come si fa a tenerle separate da vicenda giudiziaria. Beh, considerazioni morali fanno parte, se inquadrate poi giuridicamente, della valutazione del fatto. Ovviamente parliamo sempre di ipotesi, io non voglio parlare del processo perché sarebbe, come dire, irriverente nei confronti del processo non conoscendo le carte. È ovvio che se un'attività ipotetica di sfruttamento della prostituzione di un minorenne viene compiuta da un genitore, è un fatto molto più grave rispetto a un'attività di sfruttamento di prostituzione che viene compiuta da un soggetto estraneo. Proprio perché nel nostro ordinamento il genitore ha una posizione, ha un dovere di tutelare, di proteggere il minore da quelli che possono essere i pericoli esterni, e quindi non è, come dire, una considerazione di natura morale, ma una considerazione di natura giuridica che va a incidere quando il giudice valuta la gravità del fatto, per esempio come in questo caso l'intensità del dolo, il difensore diceva che era un dolo eventuale, quindi in qualche modo attenuata la posizione, ed altri parametri che sono previsti dal codice per poi quantificare la pena. Però siccome tutto va anche in funzione del recupero, in questo caso del recupero anche soprattutto della persona che è più vittima, in questo caso le due minorenni, la domanda che voglio farle è: non ci si pone anche nell'ottica in qualche modo di, non dico alleviare la pena, attenuare la situazione, ma quando il procuratore capo dell'Aquila dice insomma adesso si rischia, togliendo la potestà genitoriale e chiedendo anche un risarcimento danni in sede civile, di rovinare anche un rapporto che va ben oltre la durata di un'eventuale condanna, cioè cioè non ci si pone anche in un'ottica futura, perché è facile essere molto, molto duri applicando la legge oggi. No, questo è corretto, nel senso che bisogna vedere se ci sono i presupposti per recuperare questo rapporto innanzitutto. Normalmente nei confronti del minore questa è un'attività che fa il giudice minorile, che è preposto proprio a questo tipo di cose, ma qui parliamo di ragazze che sono quasi maggiorenni, quindi evidentemente una volta raggiunta la maggiore età, come dire, è un rapporto che sarà gestito in piena autonomia, io mi auguro anche col supporto di esperti esterni, come può essere uno psicologo della relazione, ed altre figure specifiche fra la madre e la figlia. È chiaro che come dire, se c'è un rapporto che ha una base di valenza positiva, bisogna tendere a recuperare la genitorialità comunque, e ci sono altri casi invece dove ciò non è assolutamente possibile. Ecco, questo tra l'altro le voglio chiedere, c'è la possibilità, dovesse essere assolta per esempio in appello, in via definitiva, sulla potestà genitoriale cosa succede? Cioè viene meno la pena accessoria, ovviamente, perché quindi... questa è una pena accessoria applicata dal giudice penale all'esito di una sentenza di condanna. C'è poi la valutazione autonoma che può fare il Tribunale per i minorenni, che è un altro settore di valutazione. Mm. Certo, e quindi diventa, lo dico brutalmente, ridiventa madre anche dal punto di vista della legge, dovesse... Se fosse assolta, da questo punto di vista sì. C'è sempre comunque, finché il soggetto è minorenne, la possibilità per il Tribunale per i minorenni, attraverso un'indagine che viene definita psicosociale, di verificare se al di là del fatto penale poi questa madre sia stata, come dire, un genitore idoneo a svolgere questa delicata funzione. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire dopo la pubblicità, queste sono le considerazioni di base fatte da Fabio Roia, come detto giudice alla sezione soggetti deboli al Tribunale di Milano, e l'avvocato Nicola Santoro che difende la mamma che è stata condannata, una delle due mamme minorenni. Ricordiamo che la vicenda è nata perché una delle due mamme, quella della 14enne, ha scoperto la vicenda e ha denunciato il tutto. L'altra mamma, invece, la mamma della 15enne, che è difesa da avvocato Santoro, è stata condannata in primo grado perché è considerata anche una mamma che ha sfruttato questa situazione della figlia e ha tratto anche benefici e vantaggi di questo sfruttamento della prostituzione minorile. Dopo la pubblicità, tra qualche minuto, con le vostre telefonate. 24 mattino. Siamo qui alle 8:37 minuti, allora continuiamo il discorso sulla vicenda, anche a dirlo, baby squillo, baby prostitute, è così, è una semplificazione da titolo giornalistico che insomma fa capire il tema che stiamo trattando, ma è già un po' dall'idea dello squallore nel titolo. Comunque, siamo con Fabio Roia, con l'avvocato Nicola Santoro e con gli ascoltatori. Vorrei dar la parola ad Alessandra da Pisa. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno, grazie. No, dunque, ammesso naturalmente che io tutto quello che so di questa vicenda l'ho letto dai giornali, quindi può essere anche che qualcosa, anzi, molto io non sappia. A me devo dire che la cosa che un po' ha lasciato perplessa della prima difesa di questa signora è stato quando ha detto: ma io non credevo che mia figlia si prostituisse, pensavo che spacciasse e basta. Ora, francamente, devo dire, a prescindere da qualunque altra considerazione, il punto è che questa madre, a me sembra che comunque sia venuta meno, a parte la questione della prostituzione, a un dovere nei confronti della figlia, cioè che appunto è quello di stare attenta, di proteggerlo, e quindi diciamo, non mi porrei tanto il problema sinceramente del diritto o della madre di poter mantenere un rapporto con la figlia. Semmai mi porrei da madre il problema di quanto questa figlia possa, voglia e sia nelle condizioni in un futuro di ricostruire un rapporto, ammesso che questo sia possibile. Cioè, e credo anche che in questo caso, voglio dire, sia soprattutto per il bene della figlia, cioè, se la figlia riesce a passare sopra questa cosa. Guardi, sono due considerazioni interessanti. Io le rispondo per quel che è un titolo del Messaggero di oggi: la vita della quindicenne, cioè di questa figlia, che secondo il Messaggero dice chiede sempre della mamma. E questo però per la seconda considerazione, ma entrambe le considerazioni, se vuole, le risponde l'avvocato Santoro. Intanto, avvocato, anche a me ha molto colpito quella difesa, che mi pare sia stata una difesa anche processuale, no? Cioè a dire: io pensavo solo che mia figlia spacciasse, l'ha detto, cioè questa è stata la linea iniziale, la reazione? Sì, sì, no, ma non è stata una linea difensiva, è stata la ricostruzione dei fatti secondo quelle che sono state le dichiarazioni della madre e della figlia, ecco, ma e perché, dell'altra ragazza. Mi perdoni, ma perché lo dice? Cioè, io posso capire che di fronte a un'accusa lei sfrutta la sua figlia come prostituzione, un'accusa talmente odiosa e pesante che uno, come dire, preso in castagna, magari dice no, ma io al limite pensavo che spacciasse, però effettivamente suona come una difesa abbastanza... Quindi è abbastanza clamoroso dire come se lo spaccio fosse una cosa tollerabile. Ritorniamo al discorso che facevo prima, per cui lei è comunque pentita e comunque ha intrapreso un percorso perché si è resa conto della gravità di quello che ha fatto, gravità di quello che ha fatto, che ha portato, come correttamente prima parlava il dottor Roia in termini generici, nella specificità del caso è accaduto ben prima della sentenza di ieri, che vi sia intervenuto da prima un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale e dopo anche un provvedimento di revoca, quindi autonomamente dalla decisione del giudice penale. Proprio per la gravità dei fatti, a prescindere dalle eventuali responsabilità penali. Sulla questione invece del rapporto con la figlia, oggi leggo appunto questo titolo sul Messaggero, ha sentito l'ascoltatrice, sì. mi preoccupo proprio che ci possa essere un rapporto con una madre del genere, però effettivamente oggi il Messaggero titola così, la figlia chiede sempre della madre, lei ci può dire qualcosa al riguardo? Sì, io non ho rapporti diretti con la figlia, ma quello che so, perché ci sono degli incontri protetti che la ragazza con gli altri familiari, e confermo che la figlia desidera assolutamente incontrare la madre e ritrovarla, perché questa vicenda nella sua gravità comunque non è avvenuta in un contesto di violenza e costrizione, e quindi sia la figlia che la madre stanno sicuramente intraprendendo un percorso per allontanarsi da quello che è stato, che sicuramente e questo, è umanamente molto e grave. Questo è interessante. Prima degli altri ascoltatori, dottor Roia, veniamo al punto della domanda che le facevo prima della pubblicità, cioè se c'è, noi non dobbiamo giudicare, voglio dire, se c'è la volontà di recuperare questo percorso in un futuro, non è che c'è il rischio che adesso fare una richiesta di risarcimento danni in sede civile, appunto toglie la potestà genitoriale, ma sappiamo che fa parte della sentenza, rischia di, come dire, di rompere anche tutto quello che i pochi cocci magari che sono rimasti ancora pronti per essere rimessi insieme. Sì, la premessa è capire fino a che punto questa volontà della ragazza è reale o è viziata da rapporti di complicità e di confusione che molte volte in queste vicende si generano. In caso per esempio di abuso su minore, il minore molte volte è legato paradossalmente alla madre che non ha assunto una posizione protettiva, quindi qui il compito principale è capire fino a che punto è una volontà, come dire, non viziata e invece una volontà reale da parte della ragazza di riallacciare questo rapporto. Io credo che dovrà essere fatto un percorso terapeutico molto importante da questo punto di vista. Per quanto riguarda il linguaggio mediatico, secondo me l'aspetto più triste, più mortificante della vicenda è proprio la vita di queste due ragazze, una vita non vissuta, una vita rubata, adesso a prescindere dalle responsabilità. E poi un tema che lei non ha introdotto è quello degli adulti che ci andavano, qui francamente questo... è tutta un'altra vicenda, e devo dire che il genere maschile, le parlo da uomo, qui è francamente perdente, francamente molto molto indietro rispetto alla tutela solo del minore ma del genere femminile. Li ha definiti il Papa pedofili. Lei sì, concordo, sono pedofili, perché qui siamo di fronte a una forma di parafilia, di un gusto che non può essere accettato dall'ordinamento non solo giuridico ma, come dire, anche morale, qui mi spingo oltre, e quindi fa bene la procura a portare a processo queste persone. Fra l'altro devo dire, la dottoressa Monteleone è una dei massimi esperti e quindi è un magistrato assolutamente capace nella gestione di questi casi, ed è giusto che i clienti di prostituzione minorile, come prescrive la legge, siano poi sottoposti ad un procedimento penale. Arrivano, che pene possono rischiare? Le pene per pedofilia, che cosa... Qui il CAL credo che sia contestato il reato di prostituzione minorile, cioè chi attraverso una qualsiasi mezzo di pagamento, utilità o denaro accetta di avere un rapporto con un soggetto minorenne, ma le pene possono essere sull'anno, anno e mezzo, due anni, dipende poi dalla scelta dei riti. Ho letto anche che la procura non intende prestare il consenso al patteggiamento. Lei è d'accordo su questo? Perché il patteggiamento, ricordo, prevede anche uno sconto della pena. Sì, esattamente, di un terzo. Bisogna vedere le condizioni, bisogna vedere come si pongono

ma Mare Nostrum è la prima operazione di questo genere e è sicuramente un'operazione di carattere umanitario. Noi ci auguriamo che possa continuare ed essere anzi espansa a livello europeo ed è anche vero che è estremamente importante perché per la prima volta ha consentito in modo organizzato di intercettare ed arrestare gli scafisti che non ci dimentichiamo sono coloro che lucrano su questo. E questo sì, questo. E sappiamo anche, abbiamo visto con quali intercettazioni di livelli anche di considerazione tra di loro, però le cito un altro titolo, oggi la copertina di Panorama mette la foto con titolo tutto esaurito, cioè di un gommone. Molti italiani pensano, ma in maniera anche legittima se vuole, a dire ma dove li mettiamo, cioè cosa ne facciamo di tutte queste persone, dove vanno queste persone che poi arrivano in Italia? Certo, ecco. chi ha diritto a avere il titolo di ruolo di rifugiato di guerra, per carità, ma cosa facciamo? Cioè non è che possiamo sempre accogliere tutti. Beh, intanto chi appunto ha diritto deve essere accolto. In secondo luogo parliamo di persone che stanno sul territorio italiano per pochi giorni, dopodiché anche questo va detto, la maggior parte di loro si sposta perché vuole ricongiungersi ai familiari e diciamo alle famiglie che risiedono il più delle volte nel nord Europa, paesi che hanno investito negli anni scorsi molto di più sul carattere umanitario dell'accoglienza. Questo è importante da specificare, mi scusi Carlotta Sami, sì, perché sì. Possono spostarsi, perché a me risulta che se una persona viene identificata in Italia non ha poi la libertà di potersi spostare in maniera... Infatti questo è un problema grosso ed è il problema principale diciamo della diatriba tra l'Italia e gli altri paesi europei, perché chiaramente l'Italia subisce in qualche maniera la maggiore difficoltà sì. del primo arrivo, certo. mentre gli altri paesi europei, in primis la Germania, si fa carico dell'accoglienza su lungo termine. Parliamo di un rapporto di 20.000 richieste d'asilo in Italia e di 170.000 in Germania, quindi c'è una bella differenza e da qui nasce diciamo la tensione rispetto alla definizione delle strategie. Ecco, quindi quelli che non possono spostarsi che destino hanno qui in Italia? Che vengono identificati e quindi? Siccome sappiamo che le procedure di richiesta per lo status di rifugiato sono molto molto lunghe. Anche qua facciamo chiarezza, c'è un po' di disinformazione anche qui. I tempi di rilascio diciamo della risposta in Italia ormai sono assolutamente in linea con quelli degli altri paesi europei. Si va da 6 mesi a un anno, le persone sono ospitate nei centri per richiedenti asilo sì. Dove presentano la domanda, dove ricevono accoglienza. Su questo noi e sulla qualità di questi centri e il modo in cui sono stati creati abbiamo raccomandato di evitare i grossi centri che creano problemi, obiettivamente quando ci sono migliaia di persone tutte insieme abbiamo raccomandato piccoli centri più sparsi nel territorio, perché poi ritornando a quella che è la percezione della popolazione è importantissimo organizzarla bene questa accoglienza in modo tale che appunto non ci sia l'idea, perché viene organizzata male, che tutte queste persone siano abbandonate a loro stesse. Lo capiamo bene quale può essere la percezione. Ed è importante che il governo sia il più possibile efficiente in tutto questo. Cosa fa l'Europa? Molti nostri politici, anche il Presidente del Consiglio, dice niente, fa morire i bambini nel Mediterraneo e aiuta le banche. Questa frase di Renzi mi è rimasta molto colpita, mi è rimasta molto, molto scolpita nella mente. Lei concorda? Ma ripeto, quello che dicevo prima, diversi paesi europei fanno... forse più dell'Italia in termini di integrazione dei rifugiati. L'Italia si trova a fronteggiare una difficoltà nei primi giorni dell'accoglienza ed è molto impegnata nelle operazioni di salvataggio e ci auguriamo che infatti diventino europee. Ma anche gli altri Stati membri dell'Unione dal nostro punto di vista possono fare molto di più e abbiamo proposto ormai da mesi che vengano messi appunto dei programmi di ammissione umanitaria in modo tale che i rifugiati vi possano accedere direttamente dai campi dove transitano senza dover arrischiarsi ad attraversare. Cioè sono i famosi corridoi umanitari per farli arrivare qui in maggiore sicurezza? Sì, diciamo giornalisticamente vengono chiamati sì. così, in realtà sono dei programmi in cui le domande vengono prese in esame appunto attraverso di noi e si chiamano reinsediamenti, ricongiungimenti familiari e ammissioni umanitarie per casi particolarmente vulnerabili. Allora, ovviamente su questo tema, come su tutti, torneremo. Io intanto la ringrazio per essere stata con noi. Voglio ricordare Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU per il Sud Europa. Torneremo perché purtroppo, come vedete, giorno dopo giorno si parla sempre di naufragi, l'ultimo che riguarda altri due episodi che sarebbero venuti al largo con decine di migranti che mancano all'appello. Allora, ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia, il nostro account Twitter 24 Mattino, potete seguirci, così come su Facebook, così, e il mio personale Alino Milan. E l'appuntamento quand'è? A domani, eh? Domani è venerdì, quindi c'è un altro giorno per concludere questa settimana. Molto bene, molto bene. E allora a domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.